Savonarola, il frate che surriscaldò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che compì 40 anni in un'Italia che contava intorno ai 22 milioni di abitanti, che si sposavano una media di 190.000 matrimoni l'anno, mettendo al mondo annualmente quasi 1 milione di bambini, e lette da me che ho compiuto 40 anni in un'Italia che conta intorno ai 60 milioni di abitanti, che si sposano una media di 250.000 matrimoni annui, e ciò nonostante mettono al mondo appena 500.000 bambini. D'altra parte, si dice o non si dice che i gran personaggi o non hanno figlioli o non son saggi? Serio, capitolo 38. Il nostro cuore batterà. La signoria aveva richiesto circa 200 dei principali cittadini e, sebbene non tutti intervenissero, pure erano presenti. I 16 gonfalonieri delle compagnie, i 12 buoni uomini, i 10 della guerra, gli 8 di guardia e balia, gli ufficiali del monte, i conservatori di legge, i capi di parte guelfa, molti arroti e finalmente il senato, ossia consiglio degli 80, oltre la signoria. Formavano in tutto una radunanza di 136 persone. Molto speravano quel giorno di poter fare e dire i difensori degli accusati. Quando tutto fosse mancato, doveva riuscire assai facile, innanzi ad un tribunale così largo, mandar nuovamente in lungo la decisione. Letti pertanto i processi, la signoria ordinò che ciascuno si restringesse nella sua pancata onde consultare sulla decisione da prendere, dopodiché ogni pancata mandasse a riferire il suo parere liberamente e senza rispetto all'antica usanza che vietava di esprimere una opinione contraria a quella della signoria. Ne risultò subito che i 5 accusati dovevano subire la pena del capo e i loro beni essere confiscati. Da questo parere i difensori restarono sbigottiti e sorpresi oltre ogni dire, non sapevano che si dire né che si fare. Ma pure, conoscendo di avere nella signoria 4 voti favorevoli, incominciarono a dire che le parole di pochi non potevano far conoscere il parere di tutti e che bisognava venire a una votazione individuale. Speravano che questo procedere nuovo ed inusitato dovesse dare occasione a qualche disordine, perché molti, non usi a parlare innanzi alla signoria, si potevano confondere e quindi nascere opportunità di mettere in dubbio i loro voti e a mandare la cosa in lungo. Ma questo disegno fu rotto da Francesco Valori, il quale si presentò subito al banco della signoria e, chiamato il notaio, disse a voce alta e fece pubblicamente rogare che egli giudicava quei cittadini meritevoli della morte e della confisca. L'esempio fu seguito ancora dagli altri, che si trovarono quasi tutti concordi nella sentenza del Valori. In tal modo i signori si videro costretti ad ordinare agli 8 l'esecuzione della sentenza, che, messa fra questi a partito, fu vinta con la maggioranza di 6 voti contro 2. I difensori si credettero allora perduti e non seppero fare altro che ricorrere a Messer Guido Antonio Vespucci, celebre dottore in legge e molto potente fra gli arrabbiati. Questi consigliò subito che dalla sentenza degli 8 s'appellasse al Consiglio Maggiore secondo la nuova legge. L'appello fu immantinenti chiesto e, fatta la votazione, si trovò che 4 dei signori erano favorevoli, onde ne nacque tanto disparere e tanto disordine che bisognò rimetter la pratica al 21 agosto. E così, inaspettatamente, i difensori degli accusati riuscirono di nuovo nel loro intento. La discordia intanto dal palazzo scendeva nella piazza e per tutto si andava gridando che bisognava fare giustizia, che la patria era in pericolo, che il rimettere la cosa ad una pratica in un'altra poteva essere fatale alla Repubblica. Nel medesimo tempo correvano per la città degli scritti anonimi che accusavano fieramente la debolezza dei magistrati. In tale disposizione di animi si raccolse il 21 agosto la seconda pratica a decidere sul concedere o no l'appello, e non è da meravigliare se fin dal principio la disputa divenne gravissima. Per di più, i difensori degli accusati pensavano solo ad accrescere il tumulto, sperando così di far passare ancora quel giorno senza deliberare. Infatti, s'era già verso la sera e disputavasi sempre senza mai concludere nulla, perché i popolani, accecati dal furore, anch'essi impedivano che i consigli procedessero ordinati e in tal modo, senza volerlo, secondavano i disegni dei loro avversari. Ma ecco, arrivano lettere degli ambasciatori e, lette dalla signoria, udite nella pratica, empiono ognuno di nuovo furore. Si conobbe per esse: il pericolo della Repubblica esser veramente grandissimo, i nemici avere maneggi per tutto, il duca di Milano secondarli, il papa aiutarli con tutti i suoi sforzi e, se faceva sembiante di moderazione o di amicizia verso la Repubblica, ciò era solo per meglio operarne la ruina. Allora si chiese da capo la lettura dei processi, onde confrontarli con le lettere avute, dopodiché che i cittadini si raccolsero di nuovo a deliberare nelle pancate e ciascuna pancata mandò uno dei suoi a parlare. L'opinione universale era che si dovesse eseguire la sentenza capitale senza indugio, ma pure il sapere che la signoria era sempre volta a favorire gli accusati fece sì che molti titubarono e non ardirono parlar francamente. Considerando che, per essere già la terza ora di notte, molti erano stanchi, la signoria incominciò di nuovo a menare in lungo la decisione con la speranza di poter sciogliere la pratica senza concludere. Ma il Valori, accortosi della intenzione, si levò in piedi e con gli occhi infiammati, furioso come un leone, corse al banco della signoria gridando minaccioso: «Si faccia giustizia! Si faccia giustizia! Altrimenti scandalo ne seguirà!» A queste parole Luca Martini, che era proposto, non ebbe animo di resistere e subito mise il partito ai voti. 5 dei signori si pronunziarono allora per la morte, ma gli altri 4 restarono sempre favorevoli agli accusati e votarono per l'appello. Allora Francesco Valori ruppe ogni usanza, perde ogni rispetto alla signoria e con voce rauca per lo sdegno si mise a gridare. Il Martini, o persuaso o spaventato, propose finalmente la sentenza in questi termini. Udito il rapporto e consiglio dei magistrati, del senato e degli altri cittadini per la esecuzione, visto che dall'indugio nascerebbe manifesto tumulto e pericolo, si ordina ai signori 8 che senza indugio facciano questa medesima notte torre la vita a quei 5 cittadini che si già nella stessa pratica hanno condannati. La subita proposta del Martini e più ancora la feroce presenza del Valori, che stava sempre minaccioso, sbigottirono per modo i 4 signori dissenzienti che renderono nella sua mano favorevole partito. Dopodiché, disteso il bullettino, fu consegnato agli 8 che andarono subito nel palazzo del capitano onde apparecchiare l'esecuzione.